20 di vita biografi, mi immagino un gioco di parole per i 20 anni, ma anche un po' di vento d'aria fresca. Cerchiamo di dare un po' di vita al, al panorama cinematografico della città, che non ne ha bisogno per sé. Bologna in questi anni è sempre più capitale di cinema, iniziative. In tutto questo, Biografilm festeggia 20 anni di vita, lo fa con un festival che cerca di essere contemporaneamente uno sguardo sul documentario, sulla memoria, sul passato, ma anche molto sul presente e sull'attualità, e anche guardando al futuro di quello che sarà il cinema. Ci eravamo sentiti per le anticipazioni e ci avevate detto tanta musica, tanto rock. Sì, infatti confermo, perché abbiamo questo documentario, appunto parlando dell'attualità, non sapendo tra le tante offerte che c'erano state fatte di documentari per parlare del conflitto in Ucraina, abbiamo scelto questo Turn in the Wound, dove due artisti americani, che però con un'anima molto europea, come Abel Ferrara e come Patti Smith, si sono uniti, hanno unito le loro forze per fare questo documentario, secondo me molto poetico, perché dove non può la cronaca, dove non può il racconto giornalistico, può l'arte, perché l'arte serve a sintetizzare appunto l'essenza, l'anima delle cose. Quindi questo sarà il nostro film di chiusura. Prima di Patti Smith arriveranno dagli Uzeda, Manuel Agnelli, Ila Cruz, Peaches. Sarà come sempre un po' un festival rock. Devo dire che questo, noi della direzione artistica siamo entrambi dei rockettari, scusateci. Scusateci. Ecco, abbiamo anche avuto l'aiuto dei supporter musicali locali e dei promoter, che ci hanno fatto delle offerte che abbiamo accettato di film, e anche questo, anche Bologna è comunque una città di musica e noi seguiamo la sua anima. Ecco, qualche anteprima invece? Beh, c'è un arrivo a Bologna importantissimo, che è quello di Talia Ryder, che è l'attrice protagonista di The Sweet East. Talia Ryder è una giovanissima, noi puntiamo su di lei, sarà la star di Hollywood del futuro, ma nel frattempo viene a Bologna. I più giovani la conoscono perché è la protagonista del video Déjà Vu di Olivia Rodrigo. A proposito, la sua amica Olivia Rodrigo è qui in città, vediamo se riusciremo a farla incontrare, che si facciano un selfie sotto le due torri. Però lei, insomma, ha già lavorato per Spielberg, insomma, è già un'attrice che secondo noi diventerà la star del futuro, verrà qui a Bologna, e quindi auguro che il pubblico di Bologna ne approfitti. Bene, qualcos'altro da aggiungere, qualcosa da non perdere? Che siamo molto molto felici. Io ringrazio veramente la stampa, i media, la città, gli operatori del settore, e non perdete Biografilm.